ci possa essere sulla faccia della terra e negare la libertà a una persona. Tutto lì. È così. Antonio, andatesi a vedere. Andate a vedere. Sono qua, sono. Senza parlare, dove stavo ascoltando. A vedere a coso. Sì, vado a vedere cose su Badu. Badu, su Facebook. No, ci sono andato, no. No, non ho mai acceso. Ah, ho capito. Bene ragazzuoli, io adesso vi saluto, per la mattina mi devo fare chizzo chizzo e niente, ce la riaggiorniamo domani e niente, ci facciamo un'altra chiacchieratina, dai. Ciao Gianni, ciao Bobolì, buonanotte, buon trabacco per domani e niente, dai, 944 quando la fate. Per quanto mi riguarda io chiudo le trasmissioni, grazie per la compagnia, per la chiacchierata e niente, dai, anche per lo scambio di opinioni, quando si è in democrazia è sempre bello affrontarle. Ciao, ciao Giuseppe, ci sentiamo, ci ha fatto piacere, dai. Buona serata e vorrei trovare al volo domani, dai. Ciao Giuseppe, dai, ci sentiamo. Aspetta un attimo che mi hanno chiamato. Vai, tanto fra poco sto mollando anch'io. Già. Sì. Come qua. Io ho sentito due scariche, tanto. Oh, ma io ce l'ho un colpo di portante, non è il mio, no? le cose strane. No, perché sono di fronte alla colonia. KK. Vabbè, allora. Lo so. Diciamo che quello lì sicuramente ha avuto la morte della figlia o di qualche parente, perché si chiama lui anche lui. Elogia, diciamo, le forze dell'ordine che sono morte per salvare la vita di altre persone, eccetera eccetera, e viene attaccato, diciamo, da gente che invece è dalla parte di Graziano Mesina, che è detto sicuramente sia uno sbirro, questo e quell'altro, eccetera eccetera. E diciamo che da tutti e due punti di vista bisognerebbe capire sia l'uno che l'altro. Dovrebbe essere più da lui che qua, ma per fare il sito quello che ti ha coperto. Ho detto che all'incirca dovrebbe essere così, perché io mi sono bene da una cosa e dall'altra. Infatti. Bisogna essere in mezzo e non lo augura nessuno per sapere certe cose, perché appunto ne stavamo parlando con Giuseppe e con Antonio poco fa e niente, diciamo che molta gente crede di sapere, di poter giudicare, di fare. Io prima di aprire bocca ragiono e penso che magari anche dando il torto a Graziano potrei sbagliare, perché magari trovandomi nella stessa situazione sua magari avrei detto uguale, anche se non ha fatto solo quello, ha fatto anche rapimenti di persona, lo facevo per aiutare i poveri, è vero, ma io ho fatto l'esempio come quello che va al cimitero per mettere i figli da una parete e di rubare un altro, e che atto fai? Non è che fa un atto buono di certo. Calma, vediamo lo Gianni, dai, ce la rispondiamo Gianni, è prossimo. E vabbè, ciao. La benedizione ce l'è data. Vante. Allora, purtroppo è così, già, non sapevamo. Dopo che è successo quello che è successo, è diventato così, si sono seguite un sacco di cose, si sono seguite che si sanno cosa ha combinato, però purtroppo ha avuto una situazione brutta. Ma poi si è visto, l'ha dimostrato. Non deve nessuno gli rompere le scatole, è una persona che è anche tranquilla, non è che... Però se li prende i piedi, giustamente si gira le palline. Charlie! Ehi! No, non sto facendo peraltro, perché siccome poi ci sono tre festeggiate, scusi, è Sant'Anna, io ne ho tre qua, c'ho mia sorella, mia moglie e mia madre, e quindi mi sembra brutto lasciarmi da soli. Ah, vabbè, no, non c'è problema. Fate gli auguri a tutti e tre, cappa, e non ho niente per tirarmi su. Appunto, è quello lì che mi stanno chiamando, e quindi va Antonio, e tanto non è male, già, e io invece me la mangiavo, già. Mi pare che ti interessa a te, è una maniera di tirarmi su, altro che cioga, No, no, anda, perché non mi voglio lasciare su, là. Va bene, non c'è problema, ne capisco le cose. Antonio c'è Sant'Anna, io questo non me lo ricordavo che fosse Sant'Anna oggi. Chiappa. E così è già. Io ho fatto il tiramisù, dai. Ho fatto a maniera mia, mi è uscito buono. Ma. Tu l'hai fatto? Chiappa, ho fatto io sabato, ho fatto. Praticamente ha fatto metterci il mascarpone e ci ho messo la crema pasticcera. Che si mette panna e mascarpone. No, ma io l'ho fatto a modo mio, è pulito buono, lo sai. No. trovato la strada, l'ho messo nel caffè, un dolce, forse tirando giù, chiamo tirando in su. È un dolce, cioè, l'ho messo, l'ho fatto, l'ho messo i cosi savoiardi nel caffè, l'ho messo dentro la teglia. Ho posto la crema a basso cielo, ho fatto un'altra strada e poi sopra la panna e ci ho messo il cacao. Ma tanto ci dovono. Diciamo, è la prima posizione fatta a tu. Allora. Come non fare la prima posticella? Farina, limone e poi latte. Oh. Così è. E le uova pure ci vuole. Però stavo dimenticando. Gappa. Non sono sicuro, però mi sembra che ci vuole. Adesso sono da un bel che non la faccio più. Io prima la facevo. La facevo anche ai bambini e se la mangiavano volentieri quando era fredda. Adesso non la stavo facendo da un bel di anni. Ma già c'è la ricetta che fa. Ah, tranquillo che è così. Ma questi saranno anche a fare dolce? Chi vuole. Ah, ti saranno a fare dolce allora? Anche io, ma l'altro giorno ho fatto la crema catalana, è uscita molto buona. Ma devo imparare a farla? Qua non ho imparato, l'ho comprata, tanto l'ho comprata, la verità, c'è la ricetta scritta sopra la scatola, come ce l'ha scritto, ho fatto tutto lì. Cameo e me, della Cameo. Della Cameo. Cava, sito torta catalana. Ho proprio fatto il cucinato al cioccolato, ho fatto. Poi per far bruciare la crema, li metti, c'è la bustina, gliela metti sopra, una volta che fai, che è fredda, li metti la bustina. E poi la metti in forno, però devi avere il grill, se non c'è il grill non la puoi fare. E devi farla scaldare, bruciare la crema bruciata col forno aperto, perché se no si cucina anche la crema catalana, diventa cattiva. E poi hanno i chiusi bruciatori minoretti con la bomboletta a campeggio, la fate nei così. A bruciare la crema? Yeah, non so cosa capo faccio, non so come il procedimento. Vabbè, lì la crema è già fatta, dovrebbe essere zucchero, caramello. Una cosa del genere. Ma gli fate ringraziare a Gogo. Anche oggi per poco non mi ammazzo. Ho comprato l'anguria, sapete, su un gas della Sindria. Ho comprato l'anguria, stavo scaricando dalla macchina, no, ho messo la busta in terra. Si è girata la busta e comincia a gorrire la Sindria. C'è una comica, l'avevo vista la studia, vado a presa l'anguria cercando di fermarla, alzo la gamba per bloccare l'anguria, mi gira il piede sotto l'anguria, cazzo, guarda, proprio come mi tocco la gamba. Ho fatto uno strappo, ma dietro nella cuscia che sono rimasto secco. Cazzo, ma te fate adesso te? Pare i brumi sassanti. E tutti a me su te. Sì, cosa fate? La fate di cudiare un muretto e si spaccava la Sindria. L'avevo comprato da bella orecchia, sono tornato, la poggio in terra perché c'avevo un po' di buste di spesa anche, l'acqua tutto quanto, abbasso a terra, non gli ho fatto il nodo, cazzo, si gira la borsa, come sta il burro di Sasinde, a voi? comunque è meglio facciarsi la Sindia che l'anca. È vero, mamma la stavo sognando con quello che avevo preso. Mi ha preso l'anguria, dove anche c'è? Il melone, quindi io andavo da una parte e dall'altra, ma di meno non me la fottiamo da niente, dove c'è qua? Ma io mi trovo pure il melone, ma sai come ha messo la cintura bianca? E io l'ho anche mangiata. Buona, sì, se la trovi buona è buona, ha lo stesso sapore, buona sì. Dove vai tu? E io preferisco, la preferisco rossa, però anche quella bianca è buona. Sì, la voglio assaggiare. Un amico mio che era fuori lì l'altro giorno me l'ha fatta mollare, l'angolo metto la sera, sta tanto di dare che da lì, che tutta canta asfalta che si assigna, pigliala da chi più è, e me l'ha fatta pigliare al cesto. Eppure la voglio assaggiare che sta a cindere la bianca, perché se è buona. Alla prova. Questo alla prova, la cindria. Alla prova la buona. Prima non va zia, neanche la mano, li va sempre che si cosi. Oh, non ti dà prelibri di cindria. Io me la credo, la sapere con un zio, te la faccio assaggiare. Un contadino giusto te lo può fare, mi quel lavoro lì, ma difficile pure quello. Prima passava nel camero, anguria la prova, 50 lire. Alla cintria, capa. E poi passava a Paracco, Baragonzo, tu che si sono riconosciuti? Paracco, Baragonzo, ci stava gli ombrelli. Non me ne da più, giù. Allora, veneta, ma di chi siete poveri? Le tutte si arrangiavano a tutto. E poi passava l'arrottino, portate forbici, coltelli, l'arrottino è arrivato. Non sai come te la notavo, aveva una specie di ingegno. Ci aveva questo sedile sopra il furgone. Pedalava, ci aveva una cinghia che faceva girare il coso. La moletta è quella che ti hanno tecolti. Non lo so come. Comunque, ma meglio comprarsi la cosa se la rotti tu. No, mi ho comprato un attrezzo che ha rotto i coltelli, ero fatto di verme. E come lì? Sì, lo quasi sopra, trac trac e a rotteggia. Ah, quelli che vanno anche nelle bancarelle, le feste, brui. No, ho pigliato un decifata, mi passi, non mi ammento male. È puro a tono, a rotteggiare le coltelli. Allora lì, uno me lo faccia rottare da per paura. Però un coltello delicato, E ci proviamo, se va. Vedi che è una battaglia, Chissà è buona. Chissà può arrotata con un macchinario. No. Vabbè, un mio collega che ne fa le pantalese mi ha detto che basta la carta abrasiva con la fina fina, poi devo avere un po' di pazienza, metterla intera la carta e passarglielo sopra, e piano piano te lo fa mal, tagliente proprio. Allora, se ci proviamo con la presto, la vedi, si è rotta. Poi qui guarda, la rasoggia, la battaglia, ma rasoggi. Tagliamo cieca un bene, a me me l'hanno data a bacicare un dubbo. Allora da fare il burro quando la sei con un ghiccio. Quando la fili, ma quando nasce non è che si affila tantissimo. Quando la fili, E invece l'Arbulesa, cazzo, quella lì tagliere una di Arbulesa o Bermana, ma taglia a frio, Arasustica e Bogusega, fa pure una valuta, mi hanno dato una rasoggia, ma stessi, un'altra casa. Cazzo, come entra già bugiata, mi hanno detto che è taglia, E a te Bogusega, ma una valuta, mi hanno dato una rasoggia, io credo che mi ha dato il coltello. Mi, giustamente di sedere, mi ma la sorte che sta attaccata a me, stai attento, E a te buco zigama, la razzo giamanna era. E adesso mi devo comprare quello piccolino piccolino, mi piace molto. Cioè a scatto è anche proprio pantalesa piccola piccola. Poi mi faccio una banca che me li merito tutti quanti dentro. Saranno che rivenghi anche su di cui io, ma già te la racconto la storia. A proposito di così. Ma io vieni a bacicare un tubo, secondo te, ma lasciamo perdere, vai. Se te la racconto in verticale, forse te l'hai pure già detto. No. Vabbè, già te la racconto. E comunque l'Arbulesa è migliore della Pantalesa, è più grossa, rimane più panzuta, invece che fina fina come la Pantalesa rimane un bel panzuta, bella filata, di lusso proprio, che non so, molto bello. Andrà a farne. Arbolea, Arbulesa. Ma adesso che si sono cucciati che sta che non è vero me. Da quando non compri dice non me. Invece la Pantalesa vuole affilata. Scappa. Adesso sono buone. C'è gente che la usa per quasi per tutto, mi fa cicare un cazzo, fa un prete un simbolo. Un bel di cose. Vedete che la usa anche a tavola, poi dire a casa di mio cognato, il primo periodo che si è sposata, mia sorella ce la sono Pantalesi a tavola. Molteni non usavano, solo Pantalesi a casa sua. Era meglio del paese di Cosuina, ma portavano sempre Molteni così. Ma se che è poco, Se stavano attento con la Pantalesa. Erano persone adulte, non è che si fossero bambini. Scappa. C'è caso rubito, si è affilata. La gare, come tenuta fosse. E così è. È bello avere l'argomento dei colti, da me piace. Non è che piacciono pure a me i coltelli, No, sai che se vorrei fare una bacheca con un fondo velluto, bello, che risalti. Cappa. No, già sono belline, già. Costa un po' di dinamo una pattadezza. Sì, quello sì. Sbagliarne, ma almeno un centinaio di euro costa. Non lo so. Pare che la giuvista una linea, beh, costava 100 euro. Pagava. Probabilmente deseggia. Ma più come sta facendo tanto? Sono stanco. Tra l'altro non mi ha fatto troppo in stagia. Poi c'è una giornata di quelle di brutto, devo viaggiare con mobili, domani devo andare fuori. Quindi mi pare che adesso ti saluto, ci sentiamo domani sera magari, sempre che ne abbia voglia. Io ho due consegne di sera, una a Stintino e una a Bonofa. Buona mare, se vado in sci. E roba, dai. Con la calma, se non vai tranquillo. Tranquillo non puoi farlo, ma tu se non prendi la sentita, mezzo la terra, mezzo la tornare. E già amore. Però la venivo di più, me. Ma spero, devo credere che non suona tanto, ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte, ciao, dai. Dai, ci sentiamo, ciao. Bravo. Dai, c'è ancora qua. Però contro la vetta giù di una volta c'era un buon macello e quindi niente. Ma non arrivo, ma c'è la prima di te, ma perché è partito molto. mi sono fatto la pausa e sono andato direttamente giù. Bravo, bravo. Mi copro anche se ho gribato. E come mai, Giovanna? Cosa hai fatto? Sono stato presto, cazzo. Mi ho svegliato un po' di cose, ho messo a posto anche in garage. Poi me ne sono andato a camminare anche, cazzo. Grazie, non ho dormito. Bravo. Oh, ma ieri non siete andati di là? No, abbiamo solo sceso, ma sono uscito con Michelino ieri mattina. Davvero? No, Valeria poi non c'è andata e allora niente, me ne sono uscito in motocombo di Michelino. Mi eravate in giro? Eh? Come eravate in giro? Ah, siamo scesi al Ghero, poi ci abbiamo fatto dal Ghero, Scalapiccada, Villanova, Romana, Itili e ce ne siamo usciti da Sassari. Ma come la passeggiata? Beh, tranquilli, tranquilli. Bravi, bravi. Ciao, bravi ragazzi. Impegni con nessuno, non ho sentito né a Valentina né a nessuno perché ho deciso se andavo là, non lo sapevo, capito? Positivo, positivo, e beh, quando è così non è che puoi dare le parole, se puoi andare di là come fai? Infatti a Michelino ho salvato ieri e ho detto guarda io prima delle 9:30 di stasera non lo so se sono o cosa, ci sentiamo verso le 9:30 perché se mi dice che andiamo devo andare, Michelino, no, non è un problema, infatti ci sono sentito alle 9:30 e non ci sono andato e sono uscito con lui. Ma non dove, ma dove? Che dirti? Buon proseguimento e ci vediamo domani mattina. Ma dai, adesso conosco la regalina, lo chiamo perché ho visto che c'era la chiamata. Buonissimo, se ti sentiamo, ciao per lui. Ciao, domani mattina, buon proseguimento. Ma Olga devi riscendere. Sì, sì. Ma dai, domani mattina, ciao, palve.